a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Riparte il palinsesto, quindi ritorna un gradito appuntamento, questo di A Regola d'Arte, grazie all'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. In questa nostra puntata di A Regola d'Arte, ben trovati da Francesco Galante, vi racconteremo di due iniziative. Una di queste iniziative è domenica prossima, domenica 11 settembre c'è la tradizionale manifestazione Tappezzieri in piazza, organizzata dall'Unione Provinciale Artigiani. Dalle 9 alle 19 a Padova, in via Oberdan e in piazza della Frutta, i tappezzieri artigiani mostreranno tutte le novità per arredare la casa. Ne parliamo con il presidente del sistema di categoria arredamento dell'Unione Provinciale Artigiani, Alessandro Testolin, che è con noi al telefono. Benvenuto Alessandro. Salve, buongiorno. Che cosa succederà domenica 11 settembre? Allora, domenica 11 settembre in via Oberdan noi facciamo la manifestazione che riguarda l'artigiano tappezziere. Sì. Che vogliamo in pratica dimostrare che l'artigiano esiste ancora e nello stesso tempo fare vedere alla gente come si lavora, perché noi in piazza lavoriamo proprio, facciamo vedere i nostri prodotti realmente come escono fuori. Ecco, quando parliamo di tappezziere a me vengono in mente, per similitudine del nome, i tappeti, ma poi mi viene da pensare anche ai divani, no? Sbaglio? No. Tappezziere per noi significa divani, poltrone, tendaggi, ecco. Tutto quello che riguarda specialmente l'interno della casa, che noi facciamo in pratica su una finestra la facciamo fiorire, per dire. Certo. La facciamo rinascere, però osserviamo la tradizione del tappezziere, che è rifare anche i vecchi divani, dove la cosa moderna non fa più. Sì, normalmente quando un divano è rotto, la tendenza, l'idea che passa sempre è quella di lo prendi, lo butti e lo compri nuovo. Sì, ma però ci sono anche dei pezzi del 700 o dell'800, del 600 che non si possono buttare via, certo, perché sono pezzi di valore e noi li facciamo rinascere. A parte questo, con noi domenica ci sarà, abbiamo voluto inserire per dare un tono di colore anche un giardiniere, mm-hmm, che ci farà una nota di colore con i suoi fiori, insomma. Cerchiamo di fare una cosa molto gradevole. Certo, e quindi dalle 9 del mattino già fino a sera, fino alle 19, fino alle 19, noi siamo là che facciamo, cioè dimostriamo come si lavora il vero artigiano, che non è quello che si dice, ma proprio veramente l'artigiano, col martello ancora, e facciamo vedere cos'è proprio il tappezziere. Quest'arte del tappezziere sta piano piano scemando, sì. Ci sono delle scuole apposite, sono curioso. No, in Italia non c'è nessuna scuola di tappezzieri, questa è una grossa carenza. Mm. Ce n'era una a Milano, è stata chiusa ancora 3 anni fa. Quindi diciamo che il lavoro e l'insegnamento si tramanda proprio magari prendendo qualche ragazzo di buona volontà, come si dice. Faceva una volta bottega per bottega. Sì, sì, sì. Chissà che magari non si trovi anche qualche volontario proprio grazie a queste dimostrazioni che possono essere. È fondamentale, perché far vedere cosa significa il tappezziere, che molti, per esempio, come dice lei, non sanno cos'è il tappezziere, gli venga voglia. Certo, certo. Anche perché cercheremo in momenti più avanti di far vedere questo lavoro nelle scuole. Mm-hmm. Mi viene in mente, per esempio, anche magari le auto d'epoca, no? Che hanno i sedili da rifare o cose di questo. Anche quelle cose lì. Quelle cose là vengono fatte da noi. Certo, certo. Ci sono per esempio qualche negozio un po' più specializzato che fa solo arredamento da auto, per dire, però è un lavoro nostro, tutti quanti lo facciamo, cioè non c'è nessun problema, come per esempio anche i vecchi materassi di lana, sì, è una cosa che sta scomparendo, però anche quello siamo capaci di farlo. Ecco, ricordo una volta c'era proprio il materassaio, veniva sotto casa, sì, e come rigenerava la lana e poi rifaceva il materasso. Eh sì, cose che non si vedono più. No, non si vedono più, anche perché è un lavoro che devi imparare proprio da garzone, se no non, sì, sì. non si riesce a imparare. Quindi una bella riscoperta quella che sì, ci sarà sì, per sì. domenica, per chi magari farà la passeggiata in centro sì. a Padova. Fermatevi, chiedete pure informazioni, perché insomma, c'è un po' di dubbio, diamo qualsiasi informazione senza impegno. E ai bambini offriamo anche un palloncino. Ah, benissimo. Il tappezziere, Unione Provinciale, Ciani. Perfetto. Allora, l'appuntamento è domenica 11 settembre, centro a Padova, ripeto, in via Oberdan e Piazza della Frutta, dalle 9 del mattino fino alle 19. A questo punto la ringrazio, Alessandro Testolini, presidente del sistema di categoria arredamento dell'UPA, che ci ha raccontato questa cosa, e le faccio gli auguri, insomma, di una buona domenica. Il sole dovrebbe esserci, quindi siamo a posto. Grazie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. My brain, oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con il nostro appuntamento di A Regola d'Arte qui su Blu Radio Veneto. Abbiamo parlato prima dell'appuntamento che c'è domenica 11 settembre con i tappezzieri in piazza a Padova. Adesso però vi raccontiamo di un appuntamento che ahimè è già passato, però ce lo teniamo buono magari perché ritorna anche l'anno prossimo. Parliamo infatti di Conserve in Mostra, che ha visto un'esposizione dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova dal 26 agosto scorso fino al 4 settembre nell'area espositiva dell'antica fiera di Sant'Agostino. Per parlare di questo abbiamo con noi al telefono Francesco Pastocchi, che è il presidente del mandamento di Conserve dell'Unione Artigiani. Ancora ben trovato, signor Francesco. Buongiorno, signor Galante. Parliamo di questa Conserve in Mostra che c'è stata qua tra la fine di agosto e i primi di settembre. Sì, questa è una fiera, è un'antica fiera che si chiama Fiera di Sant'Agostino e vanta una fama secolare proprio per la sua 499esima edizione, per cui in tutti questi anni si è potuto organizzarla sempre al meglio. Allora, l'Unione Provinciale Artigiani da decenni è sempre presente come organizzatrice della mostra, sì, dove viene allestito una tensa struttura per ospitare artigiani e anche commercianti, perché questa mostra viene organizzata congiuntamente con Ascom Padova. È un grande padiglione espositivo di 1000 metri all'interno del PRA comunale, sì, dove trovano spazio, fanno degli stand dove tutti possono esporre i propri prodotti di commercio, di artigianato. Quindi tutte le aziende di Conserve, insomma, partecipano a questa grande festa? Non solo di Conserve, ma anche dei paesi limitrofi, anche da fuori. Certo. Anche da fuori, perché è molto sentita. È una fiera che dura parecchi giorni, dal 26 agosto al 4 settembre, e si sono viste il passaggio di migliaia di visitatori, e dove viene apprezzata proprio la qualità anche della mostra come allestimento e anche la qualità delle aziende che espongono. Diciamo che mi dispiace di non esserci stato, ma a questo punto devo assolutamente tenermi libero per l'anno prossimo, dato che le cose che si trovano a questa mostra Conserve sono assolutamente interessanti. Quest'anno avete presentato anche un video. Sì, innanzitutto la invitiamo per l'anno prossimo, così potrà vedere e toccare con mano questa descrizione che le sto facendo. Questa edizione della mostra è stata caratterizzata da un'importante novità. È stato presentato un video che riassume la prima edizione del premio Renato Luisi. L'iniziativa, che era stata dedicata agli studenti delle scuole superiori, che è la nostra associazione, ha ideato per ricordare il presidente mandamentale scomparso l'anno scorso. Una figura importante non solo per l'Unione Artigiani, ma per l'intero territorio. Ora il filmato, chi volesse vederlo, è presente nei social e sul canale YouTube dell'Unione Artigiani. Invitiamo i nostri ascoltatori quindi ad andare a scoprire questo video. Certo. Che riassume, come dicevamo, la prima edizione del premio Renato Luise, che è veramente interessante e che, certo, volge, certo, uno sguardo, insomma, a quelli che saranno i futuri artigiani di un domani, no? Perché è importante, certo, che le cose non si perdano, come dicevamo già qualche tempo fa, e che l'arte dell'artigiano possa essere tramandata e recepita dai più giovani. Sì, perché sta molto a cuore all'Unione Provinciale Artigiani di Padova proprio questo voler non perdere la conoscenza dell'arte, perché solo attraverso i giovani possiamo portarla avanti. Il giovane bisogna appassionarlo, fargli capire che cos'è veramente il lavoro, che cos'è l'artigianato, è sempre una forma di arte. Certo. L'artigianato è sempre una forma di arte che esprime la propria fantasia e le proprie capacità. Ecco, volevo chiederle, per esempio, c'è una tipologia di artigiano che sta piano piano prendendo più piede, e magari qual è quella che invece sta perdendo adepti? Ma che sta perdendo, partiamo da questo, sono tutte quelle forme di artigianato prettamente manuale, dove c'è bisogno proprio del maestro incisore, il fabbro che produce articoli artistici. Si sta promuovendo di più l'artigianato, dove c'è una parte di tecnologia, perché abbinando il saper fare con un po' di tecnologia si riesce anche a sbarcare meglio il lunario. Sì, ad avere un po' di più produttività con l'aiuto di qualche piccola macchina, insomma. Esatto. Però, insomma, quando bisogna fare le cose su misura e sono cose particolari, c'è bisogno dell'intraprendenza di quello che si arrangia anche in qualche modo, no? Sì, ce ne sono ancora di bravi maestri, di bravi artigiani, però per fare questo bisogna avere una grande passione interna. Bisogna proprio amare il lavoro che si vuol fare. Certo, io la ringrazio perché ci ha raccontato questa cosa. Allora ci teniamo liberi per fine agosto 2017, i primi di settembre, per l'antica fiera di Sant'Agostino e con Conservi in mostra. Grazie a Francesco Pastò, presidente del mandamento di Conserve dell'Unione Artigiani. Ringrazio lei, signor Galante, e l'aspetto l'anno prossimo. A regola d'arte. Prima di chiudere il nostro appuntamento di oggi con A Regola d'Arte, voglio ricordarvi che c'è lo sportello SOS Energia. Vuoi migliorare la gestione dei consumi energetici? Affidati a SOS Energia, il servizio dell'Unione Artigiani che ti aiuta ad avere le migliori condizioni dai fornitori del mercato libero. Grazie al CAEM, il Consorzio Artigiano Energia e Multiutility, promosso dalle associazioni di Confartigianato del Triveneto, sono state sviluppate mediazioni utili a ridurre del 17% il costo dell'energia, nonostante l'aumento delle tariffe. Con il CAEM, infatti, si è voluto creare un unico organismo in grado di rappresentare gli interessi delle imprese socie, garantendo un maggior potere contrattuale nelle trattative con i fornitori del mercato libero. Chiedi informazioni presso l'UPA di Padova o invia la tua bolletta comprensiva di dettaglio via mail a energia@upa.padova.it. Riceverai l'analisi comparativa dei risparmi possibili grazie alle condizioni rese disponibili dal CAEM. Sportello UPA SOS Energia. Puntiamo a far risparmiare la tua azienda. Siamo così arrivati alla chiusura di A Regola d'Arte. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Ci ritroviamo anche la settimana prossima, stessa ora e stesse frequenze. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.